Yeah. Don Gadi, Dio Sol Invictus, baby. E col mio socio Shiza. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Chiamami Bugatti de Gadi. Fanculo se non credi in me, no. Porta avanti il mio stile, la rabbia che in testa uomo io ho. Non stop, odiami testa di cazzo, tu mi odi, lo so. Fanculo a questa troia che vuole solo la fama del boss. Il mondo è merda, merda, ma io combatto d'amo. La faccia a terra, sconfitto ma non morto. Ok, da riprenditi, se tu non sei com'è, da amico fottiti. Come questi qui, piccoli stupidi, non puoi competere, noi pesi massimi. Due pesi più MC, mostrami il lato B, non vali niente, sì, e allora fermami. Io non mi arrenderò, davanti prossimo, nemico ucciderò. Per questo sono il boss, nah, vivo come un Novgorod. Mafia russa, il capo dentro bro, capitalista flow, di imperialista negro. Quello che io ho, io moltiplico, ambizioso, dedico la mia vita a quel che semino. Espatriato come sovietico, la società non vive di merito. Se tu vivi in senso biblico, una roccia in metafisico. Del denaro sono un mistico, ti distruggo come le mura Gerico. Sì, vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Bugatti stile, Depp del gare sempre ostile. La costa azzurra, paradiso, terra sublime. Vivi di odio, hai fame perché tu vuoi il podio. Tu non è amore, uccidi il cuore come il sodio. E allora spingi, spingi più forte questa vita. Chiedilo a Daniele cosa vuol dire stare in vita. Vivo da solo, ragiono, mi esprimo da eremita. Io sono Gotti e la guerra non è finita. Big Boss sono metrico, ogni mia ferita con le rime medico. Più lontano della luce mi spingo, bro. Voglio brillare supernova nello spazio. Oh, tra buco nero magnetico. Il mio destino amico mio ucciderò. Il mio sangue do, la mia vita do, la mia forza ho e così morirò. Da solo nello spazio brillerò. Non ho fiducia nel mio prossimo. Vivo nel buio freddo e gelido. Gli dei dell'Olimpo sfiderò. Contro di voi ogni giorno agirò. I vostri colpi io respingerò. Ambizioso, Gotti impavido. Come uno squalo, fame avido. Vive Bugatti, di perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, di perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Vive Bugatti, di perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, di perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Io voglio i soldi, amo solo i soldi, mami. Vive Bugatti, ti perder cari cari. Guardami bene, espatriato a Miami.